Vieni qui, avvicinati, disse il ragazzino, non staccando i suoi occhi dal viso di Mary. Lei avanzò e quando fu vicina, Colin sporse una mano dal letto e gliela posò sul braccio. Sì, sei proprio vera. Sai, a volte ho dei sogni che mi sembrano realtà, tu avresti potuto essere uno di quelli. Lei prese in mano un lembo della sua vestaglia. Senti questo, com'è morbido e caldo. Se vuoi posso darti un pizzicotto per farti vedere che sono proprio vera. Ma sai, al primo momento ho pensato anch'io che tu potessi essere un sogno. Da dove sei venuta? Chiese lui. Dalla mia stanza. Non potevo dormire con questo vento e questa pioggia. Ho sentito qualcuno che piangeva, volevo sapere chi era. Perché piangevi? Oh, perché neanch'io potevo dormire e la testa mi faceva male. Come hai detto che ti chiami? Mary Lennox, nessuno ti ha mai detto che sono venuta ad abitare qui? Colin stringeva sempre fra le dita il lembo della vestaglia, ma si vedeva che cominciava a essere convinto di non sognare. No, nessuno. E perché? Perché mi sarei spaventato all'idea che tu volessi vedermi. Io non voglio che la gente mi veda, perché poi parla di me. E allora? Chiese Mary, sempre più disorientata. Io sono malato, non vedi? Devo stare sempre disteso. Mio padre non vuole neanche lui che la gente mi veda e parli. La servitù ha la proibizione di parlare di me. Se vivrò, sarò anche un gobbo come lui per tutta la vita. Ma per fortuna non vivrò a lungo. Ma che razza di casa è questa? Esclamò Mary. Che casa strana, ci sono segreti dappertutto. Le stanze sono chiuse a chiave, i giardini anche. E tu? Se per caso anche tu chiuso a chiave nella tua stanza? No, ma non esco mai di qui, proprio perché sono io a non voler uscire, mi stanco troppo. Ma tuo padre viene a vederti, vero? Chiese Mary. Qualche volta. Generalmente quando dormo, a lui non piace guardarmi quando sono sveglio. Ma perché? Chiese ancora la bambina. Un'ombra di tristezza si diffuse sul viso di Colin. La mia mamma è morta quando io sono nato e il guardarmi gli fa ricordare cose tristi. Lui pensa che io non le sappia queste cose, ma io ho spesso sentito persone che ne parlavano. Io penso che lui quasi mi odi. Lui odia anche il giardino perché lei è morta, si lasciò sfuggire Mary. Che giardino? Chiese il ragazzo. Oh, un giardino che piaceva a sua moglie, ma allora tu non sei mai uscito da questa stanza? Sei sempre vissuto qui? Finì in fretta Mary. Non sono uscito quasi mai. Una volta o due mi hanno portato al mare, ma io non ho voluto restarci perché sulla spiaggia la gente non mi toglieva gli occhi di dosso. Allora mi avevano messo una specie di busto con delle stecche di ferro per raddrizzare la mia spina dorsale, ma un professorone venne da Londra per visitarmi e disse che era una cretinata. Disse di togliermelo e di farmi fare vita all'aria aperta, figurati. E così mi portarono al mare, ma io odio uscire. Mi dà noia l'aria aperta, non voglio uscire di qui. Ero così anch'io, ammise Mary. Lui non le toglieva gli occhi da dosso, tanto che lei gli chiese: Ma insomma, cos'hai da guardarmi così? Ho paura che tu svanisca da un momento all'altro. Alle volte i miei sogni sono così veri. No, siamo tutti e due svegli, lo tranquillizzò Mary. Guardò tutto intorno la stanza, con il suo alto soffitto e gli angoli pieni d'ombra, con i bagliori del fuoco che si stava spegnendo e la luce fioca della lampada sul comodino. Sembra proprio un sogno. Siamo nel cuore della notte, tutti dormono in questa enorme casa, tutti meno noi due, ma noi siamo davvero svegli. Io non voglio che questo sia un sogno, affermò il ragazzo con una voce triste. Sembrava irrequieto, nervoso. A me rivenne improvvisamente un pensiero. Mi hai detto che non ti piace farti vedere dalla gente, allora ti do noia stando qui, devo andarmene? Colin dette un leggero strattone al lembo della vestaglia che teneva ancora in mano. No! Esclamò con vivacità. Se te ne vai vuol dire che sei un sogno. Se sei vera, siediti su quello sgabello e parlami, voglio sapere tutto di te. Mary appoggiò il candeliere e la scatola di fiammiferi che teneva ancora in mano sulla tavola vicino al letto e si sedette sullo sgabello imbottito di velluto che stava lì accanto. Non aveva nessuna voglia di andarsene. Le piaceva stare in quella misteriosa stanza, così appartata da tutti, a parlare con quel misterioso ragazzino. Da dove vuoi che cominci? Chiese. Colin volle sapere da quanto tempo era a Misselthwaite, in quale corridoio erano le sue stanze, se anche a lei la brughiera non piaceva, dove era vissuta prima di arrivare nello Yorkshire. Le fece molte domande sull'India e sul suo viaggio attraverso l'oceano. Colin non era andato a scuola, naturalmente. Aveva imparato a leggere e scrivere con un'istitutrice che era stata al castello per qualche tempo. Aveva dei libri bellissimi e assieme a me riguardò le illustrazioni di uno che parlava dell'India e di un altro su cui c'erano tanti tipi di navi, di barche e di vapori. Colin aveva anche un'enorme quantità di giocattoli. Suo padre non lo vedeva quasi mai, ma gli faceva avere tutto quello che un ragazzo può desiderare. La servitù, poi, aveva l'ordine di accontentarlo sempre in tutto e per tutto, di non disubbidirlo mai, di fare tutto quello che lui ordinava. Tutti qui devono fare quello che voglio io, spiegò a Mary, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Quando mi arrabbio sto male, e siccome tutti sanno che morirò presto, nessuno osa contraddirmi mai. Parlava di morire, come se parlasse di una cosa di tutti i giorni. Vuoi che ti racconti ancora dell'India? Chiese Mary. Sì, dimmi degli elefanti. È vero che riconoscono le persone anche dopo tanto tempo? Sì, è vero. E se qualcuno è stato cattivo con loro, prima o poi si vendicano. Non dimenticano. Una volta sembrava che Colin si divertisse ad ascoltare il suono della voce di Mary, mentre lei parlava, non perdeva una sillaba. Una volta o due parve a Mary che fosse sul punto di addormentarsi, ma poi invece riapriva gli occhi e faceva delle domande che dimostravano il contrario. Ad un tratto fece una domanda che dette seguito a una serie di discorsi interessanti. Quanti anni hai? Le chiese. 10, rispose lei, e dimenticando un attimo di essere prudente, aggiunse: come te. Come fai a saperlo? Si sorprese lui. Perché il giardino è stato chiuso e la chiave è stata sotterrata quando tu sei nato. E sono 10 anni che sono successe queste cose. Colin si mise a sedere sul letto. Che giardino? Che chiave? Chi l'ha chiuso? Dove è stata sepolta la chiave? Incalzò con vivo interesse. È quel giardino che Mr. Craven odia, cercò di spiegare nervosamente Mary. È stato lui a chiudere la porta e nessuno sa dove ha seppellito la chiave. Ma che giardino è mai questo? Dov'è? Da che parte del parco? Nessuno ci è più entrato da 10 anni, rispose cautamente Mary, ma ormai era troppo tardi per essere cauti. Colin era un po' come lei, anche lui viveva un'esistenza solitaria, senza nessun interesse. L'idea di un giardino proibito aveva avuto subito presa su di lei, appena ne aveva sentito parlare. E lo stesso era successo a Colin. Cominciò a fare domande su domande. Ma dove poteva essere questo giardino? E lei non aveva mai cercato di scoprire dove era la porta? Aveva mai interrogato i giardinieri? Oh, loro non vogliono parlarne, spiegò Mary. Credo che abbiano avuto degli ordini in proposito. Non rispondono se si fanno delle domande su questo. Io li farò parlare, disse deciso Colin. Davvero? Mary chiese con un filo di voce, sentendosi morire. Se lui avesse ordinato ai giardinieri di parlare, chissà cosa sarebbe successo al suo giardino. Certo, tutti hanno l'obbligo di ubbidirmi, te l'ho detto. Sai, se io dovessi vivere un giorno, tutto Misselthwaite sarebbe mio. Loro lo sanno e mi ubbidiscono. Vedi se non li farò parlare. Mary non si rendeva conto di essere stata molto viziata anche lei, però capiva chiaramente che questo ragazzino lo era in modo insopportabile. Parlava sul serio di essere padrone del mondo. Era un tipo veramente speciale. Aveva tanto senso del suo potere e tanta disinvoltura nel parlare della sua prossima morte. Tu dici, se dovessi vivere sarebbe mio, ma dimmi, ti piacerebbe vivere, vero? Gli chiese Mary, sia perché era curiosa di sentire la risposta, sia perché sperava così di distoglierlo dall'idea del giardino. Oh, ma è sicuro che non vivrò, affermò lui sempre con quell'aria distaccata. Da quando ho cominciato a capire, ho sentito la gente intorno a me dire questo. Prima credevano che fossi troppo piccolo per capire, ora pensano che non ascolti. Invece ascolto tutto, anche se non chiedo spiegazioni. Il mio medico è un cugino povero di mio padre. Se io morirò alla morte di mio padre, sarà lui l'erede di Misselthwaite. Io penso che a lui farebbe molto piacere che io morissi anche presto. Ma tu vorresti vivere? Chiese Mary di nuovo. No, rispose lui con una voce piena di tristezza. Però non voglio neanche morire. Quando mi sento male, sto qui sdraiato, non faccio che pensare a questo e mi viene da piangere, così piango, piango e non so cos'altro fare. Io ti ho sentito piangere 3 volte da quando sono arrivata, disse Mary, ma non sapevo che eri tu. Sentivo qualcuno piangere, ma non potevo immaginare. Ma tu piangevi per quella storia di non voler vivere e di non voler morire tutte le volte che ti ho sentito piangere? Avrebbe dato non so cosa per continuare un discorso che li portava lontano dall'argomento giardino segreto. Probabilmente sì, ma parliamo d'altro. Parliamo del giardino, disse invece Colin. A te piacerebbe vederlo? A me sì, ammise Mary a bassa voce. Anche a me, continuò lui. Pensa, io che non ho mai desiderato uscire, che non ho mai desiderato vedere qualcosa di nuovo, ora desidero, ma desidero proprio tanto vedere questo giardino. Darò ordine che cerchino la chiave, devono trovarla. Darò ordine di aprire la porta, mi farò portare là, sulla mia sedia a rotelle, per andare in quel giardino potrei anche sopportare l'aria aperta. Mentre parlava, andava entusiasmandosi e i suoi bellissimi occhi brillavano come stelle e sembravano ancora più grandi. Aveva uno stranissimo colore, grigio-azzurro-verde cangiante e delle lunghissime ciglia nere. Devono fare tutti come voglio io, perché quel giardino sarà aperto e io ci andrò. Ci potrai venire anche tu se vorrai. Silenziosa e tremante, Mary stringeva fra loro le sue piccole mani fino a farsi male. Tutto rischiava di essere distrutto, tutto. Dico, non sarebbe più tornato, non l'avrebbe più visto, non avrebbe più ascoltato i suoi racconti, le sue risate. Lui non aveva tradito, ma il suo nido di allodola non sarebbe più esistito. Oh no, ti prego, non farlo, implorò. E lui la guardò come se fosse impazzita. Cosa ti prende? 5 minuti fa hai detto che ti piacerebbe vederlo. Sì, certo, tentò di spiegare, soffocando i singhiozzi che le chiudevano la gola. Ma se tu lo fai aprire in questo modo, non sarà più un giardino segreto? Colin piegò ancora di più la testa verso Mary. Un segreto? Cosa vuoi dire? Spiegati! Le parole uscirono allora come un torrente dalla bocca della bambina. Senti, senti, se nessuno all'infuori di noi riuscisse a scoprire la porta, ci deve essere nascosta sotto l'edera che copre il muro, forse. Se noi riuscissimo a scivolare dentro nel giardino, senza che nessuno ci vedesse, noi chiuderemmo la porta dietro di noi e pensa, nessuno saprebbe che noi siamo là. Noi potremmo chiamarlo il nostro giardino e potremmo far finta di essere come delle allodole nel loro nido nascosto e protetto. E potremmo andarci tutti i giorni e lavorare la terra, vangarla, e renderla soffice per piantarci i semi e farlo ritornare a vivere. È tutto morto là dentro adesso? La interruppe lui. Se non è morto, morirà presto se nessuno lo cura. I bulbi forse sono ancora vivi, loro durano sempre, ma le rose. Colin seguiva il discorso di Mary con interesse sempre crescente. I bulbi? Cosa sono? Sono delle cose che sembrano cipolle e si mettono sottoterra e poi diventano giunchiglie, bucaneve, gigli. Stanno lavorando sottoterra ora, in questa stagione. Si preparano alla trasformazione, poi si vedono spuntare dalla terra delle foglioline verdi, tutte accartocciate prima, e poi si allungano e diventano delle foglie lunghe, e in mezzo ci nascono i fiori. Sembrano tutte uguali le foglie, ma invece i fiori sono tutti diversi, quelli che ti ho detto prima, poi i narcisi, i tromboncini e ancora altri. Ora cominciano già a spuntare perché è quasi primavera. Per ora sono pochi. Ma dopo ne verranno a migliaia. È quasi primavera. Come fai a dire che è vicina? Da cosa lo vedi? A me qui il tempo sembra sempre uguale. Beh, lo vedo dal sole che brilla nel cielo chiaro, nella pioggia che cade leggera e bagna la terra, per nutrire i semi e i bulbi, nel sole che torna ad asciugare la pioggia, nella pioggia che cade di nuovo, la vedo in quei germogli teneri che sbucano dalla terra. La sento nel profondo della terra bagnata, nel canto degli uccelli che cercano un posto per fare il nido, nel vento che soffia dalla brughiera, portando il profumo della terra smossa di fresco, delle piante, dei fiori. Se il giardino rimane segreto, noi possiamo andarci dentro tutti i giorni e guardare le cose che crescono a poco, scoprire quanti rosai sono ancora vivi, capisci? Perché vorrei che restasse segreto. Colin si lasciò ricadere sui cuscini e rimase a pensare, guardando verso il soffitto con quei suoi stranissimi occhi. Io non ho mai avuto un segreto, disse poi, piano. O forse sì. Io so che devo morire presto, però gli altri non sanno che io lo so. È un segreto questo? Se è un segreto, non mi piace. È una specie di segreto, tentò di spiegare lei, ma non è un segreto perché è una cosa che sanno tutti. Non so come dirti, ma per me non è un segreto vero. Ah, in ogni modo il tuo mi interessa di più, concluse lui. Senti, se tu non dai quegli ordini che dicevi prima, io penso che riusciremo a trovare un sistema per farti entrare nel giardino un giorno o l'altro. Se quel dottore di Londra ha detto che tu dovresti uscire all'aria aperta. Se tu volessi farlo, forse noi potremmo trovare un ragazzo forte per spingere la tua carrozzella e portarti fuori, così lo sapremo noi soli del giardino e rimarrebbe un segreto. Quello che dici mi piace molto, ammise Colin parlando lentamente, come se pensasse ad alta voce. Mi attira molto l'idea di questo giardino segreto. Mary cominciava a respirare meglio perché vedeva la possibilità di salvare il suo giardino segreto dalle intrusioni di estranei e poi era contenta di riuscire a interessare a qualcosa di bello quel ragazzo così triste. Ora ti dirò come immagino che sia quel giardino, disse. È stato chiuso per tanto tempo e ci deve essere un gran disordine là dentro. Colin stava sdraiato ad ascoltarla come se lei narrasse una fiaba. Mentre parlava dei rosai che immaginava si fossero arrampicati sugli alberi per poi ricadere in festoni ondeggianti al vento, degli uccelli che vi costruivano i nidi, perché era il luogo più sicuro di tutta l'Inghilterra, del Petirosso e di Ben Weatherstaff. La storia del Petirosso lo divertì molto e lo fece perfino sorridere, togliendo al viso pallido quell'aspetto di bambino malato e infelice. Non avrei mai pensato che gli uccelli potessero capire e fare tante cose come dici tu. Venire a cercarti, seguirti, rispondere a Ben quando fischia, saltellare perfino sul manico della vanga. Quante cose sai tu, ma vedi, stando chiuso qui dentro, parlami ancora del giardino. Da come ne parli sembra quasi che tu l'abbia visto. Mary sentì un brivido correrle giù per la schiena. Non sapeva cosa dire e perciò rimase zitta. Dopo un attimo, però, lui le venne involontariamente in aiuto. Senti, vorrei mostrarti io una cosa adesso. Vedi quella tenda di seta rosa là sulla parete, sopra il caminetto? Mary non l'aveva notata prima, ma girando gli occhi da quel lato della stanza la vide. Sembrava nascondere un quadro. Sì, la vedo. C'è un cordone dalla parte destra, va là e tiralo. Mary si avvicinò incuriosita e trovò subito il cordone. La tenda scivolò, facendo scorrere gli anelli sul bastone di sostegno e scoprì il ritratto di una giovane donna sorridente. Aveva un'aureola di capelli biondi trattenuti da un nastro celeste e due grandi occhi dello stesso strano colore azzurro agata di quelli di Colin. È la mia mamma, spiegò Colin con una vocina triste. Io non riesco a capire perché è morta. A volte mi sembra quasi di odiarla per averlo fatto. Che tristezza, disse la bambina. Se fosse vissuta lei, sono sicuro che io non sarei stato sempre così malato, continuò Colin. Sono sicuro che avrei avuto una vita normale. Mio padre non avrebbe deciso di viaggiare sempre, di starmi sempre lontano. Lui non mi vuol vedere adesso perché lo rattrista vedermi così. La mia schiena è gobba. Ritira la tenda. Mary ubbidì e poi ritornò al suo banchetto. Lei è senz'altro più bella di te, disse a Colin, ma i suoi occhi sono proprio come i tuoi, perlomeno come forma e colore. Perché c'è quella tenda davanti al suo ritratto? Lui si mosse nel letto a disagio. L'ho fatta mettere io, disse poi. Certe volte non sopporto di vederla guardarmi. Lei ride sempre, io invece tante volte sto male e mi sento infelice. Lei ride sempre, e poi lei è mia, e non voglio che chiunque entra qui la veda. Ci furono alcuni momenti di silenzio. Che cosa farebbe Mrs. Medlock se sapesse che sono stata qui? Chiese un tratto Mary. Farebbe ciò che io le direi di fare, asserì lui. E io le direi che voglio che tu venga qui e stia a parlare con me tutti i giorni. Sono molto contento che tu sia venuta. Anch'io sono molto contenta di averti trovato. Verrò più spesso che potrò, ma sai, avrò anche tanto da fare. Esitò un attimo per cercare la porta del giardino, concluse in fretta. Oh sì, devi farlo e poi devi venire qui e raccontarmi tutto. Rimase un po' in silenzio, pensando, poi continuò. Sì, penso che forse è meglio che anche tu per ora rimanga un segreto. Non dirò a nessuno del nostro incontro finché non lo scopriranno. Dirò all'infermiera che non voglio più che lei stia sempre nell'altra stanza qui accanto. Tu conosci Marta? Certo, è lei che mi rimette in ordine le stanze e che mi porta il mangiare. Colin accennò con il capo verso il corridoio. Adesso sta dormendo nella stanza qui di fronte. Quando la mia infermiera va in permesso è Marta che viene a dormire qui. È una ragazza simpatica. Lei potrebbe dirti quando l'infermiera non c'è e così tu potresti venire senza incontrare nessuno. Mary si rese conto allora del perché Marta si era tanto turbata quella volta che avevano sentito piangere. Ma Marta è sempre stata qui da te? Sì, spesso. L'infermiera non mi sopporta molto. Appena può, va via e mi manda Marta. Sono qui già da un bel pezzo, osservò Mary. Sarà bene che vada adesso. Mi sembra che tu abbia sonno. Senti. Vorrei tanto potermi addormentare mentre sei ancora qui. Chiudi gli occhi allora, disse Mary avvicinando il suo panchetto al letto, e io farò come faceva in India la mia Yah per farmi addormentare. Ti canterò una canzone battendo lentamente il tempo sulla tua mano. Forse mi piacerà, disse lui già sbadigliando. Mary avvertiva un senso di pena per quel bambino malato e le dispiaceva lasciarlo solo, perciò mise tutto il suo impegno a cantare a bassa voce la sua nenia in indostano. «Com'è bella!» mormorò lui dopo le prime note, già quasi addormentato. Mary continuò a cantare, ma quando sollevò di nuovo lo sguardo sul viso di Colin, vide che gli occhi erano spariti dietro le palpebre abbassate, mentre le lunghe ciglia nere allungavano la loro ombra sulle guance. Il respiro era regolare, e Colin sembrava sereno nel sonno. Si alzò, senza fare il minimo rumore, prese il suo candeliere e se ne uscì dalla stanza in punta di piedi. Capitolo 14. Un ragazzino Raja. La brughiera era nascosta dalla nebbia e la pioggia cadeva insistentemente la mattina dopo, quando Mary si svegliò. Impossibile uscire. Sperò che Marta l'aiutasse a passare un po' il tempo, ma c'era parecchio da fare quella mattina e la ragazza non si fermò un minuto. Continuò a correre su e giù, a entrare e uscire, senza fermarsi mai per fare due chiacchiere. Quando se ne andò, con i piatti sporchi, dopo il pranzo, Mary le disse: «Potresti tornare su dopo, quando hai finito? Farò del mio meglio». E difatti tornò, con il suo lavoro a maglia, segno che poteva restare qualche ora tranquilla. Mary stava seduta sul tappeto davanti al fuoco e fece cenno a Marta di sedersi accanto a lei. «Cosa c'è, Mary? Mi sembra che tu abbia qualcosa da dirmi». «Sì, infatti. Sai, Marta, ho scoperto chi è la persona che piange». Marta lasciò cadere per terra il suo lavoro a maglia e fissò i suoi occhi sbalorditi e terrorizzati sulla bambina. No, Mary, no, dimmi che non è vero, ti prego. L'ho sentito di nuovo stanotte, cominciò a raccontare Mary. Mi sono alzata e sono andata a cercare da dove veniva, e così ho trovato Colin. Il viso di Marta era sconvolto dalla paura. Mary, Mary, mormorò quasi piangendo. Oh, non avresti dovuto farlo, non avresti dovuto proprio. Sai in che guaio mi hai messo? Io non ti ho detto niente su di lui, ma daranno la colpa a me. Sarò licenziata, perderò il posto, capisci cosa vuol dire questo per la mia famiglia? No, stai tranquilla, il posto non lo perderai per niente. Colin è stato molto contento di vedermi. Abbiamo parlato a lungo di un sacco di cose. Sono stata là con lui un bel pezzo, a un certo punto l'ho anche fatto sorridere. Oh, non posso crederci. Sei sicura di quello che dici? Non hai un'idea di come sia cattivo quando ha la luna storta. È un ragazzo grande già, ma fa i capricci come avesse 2 anni. Tira dietro la roba, batte i pugni sui cuscini, tira calci e piange, urla e grida. Sai che ci spaventa facendo così. Sa che daremmo tutti non so cosa per farlo smettere. Ma stanotte non si è arrabbiato per niente, raccontò Mary. A un certo punto, anzi, io gli ho detto che mi sembrava l'ora di andar via e lui mi ha pregato di restare. Abbiamo parlato di tante cose, dell'India, del Pettirosso, dei giardini. Mi ha anche fatto vedere il ritratto della sua mamma. Poi gli ho cantato una canzoncina in indostano e lui si è addormentato e allora sono venuta via. Marta la guardava, con la bocca semiaperta e gli occhi imbambolati. Non credo alle mie orecchie, balbettò. È come se tu fossi andata nella gabbia del leone con una rosa in mano. Se lui fosse stato dell'umore che ha per 6 giorni alla settimana, cioè quasi sempre, ti avrebbe accolto con urli e strilli, ti avrebbe tirato contro i guanciali, avrebbe fatto uno di quei capricci che mettono paura a tutti. Le sue urla avrebbero svegliato tutta la casa. Lui non permette a nessun estraneo di avvicinarsi alla sua stanza e spesso non vuol vedere neanche noi. Oh, ma con me non ha fatto storie, continuò Mary. Eppure l'ho guardato bene da vicino. Siamo stati tanto tempo a parlare, ci siamo scrutati da capo a piedi. Mamma mia, che guaio! Io avrei dovuto sentirlo piangere ieri notte, non tu, ma io dormivo, ero così stanca. Non ho sentito niente. Ma non ci crederanno, Mrs. Medlock penserà che tu sei andata a trovarlo perché te l'avevo detto io. Mi farà fare fagotto su 2 piedi. Oh. Mi dispiace per la mamma, chissà come ci resterà male. Non disperarti per niente, esclamò Mary. Mrs. Medlock non saprà niente perché almeno per ora non glielo dirà nessuno. Sarà un segreto fra noi. E quando dico noi, includo anche te, perché sarai tu a dirmi quando non c'è l'infermiera, così posso andarlo a trovare. Non ti preoccupare per Mrs. Medlock. Colin mi ha detto che tutti devono fare quello che lui ordina, anche la Medlock. Lui vuole che io vada a vederlo tutti i giorni. Per ora in segreto, ma anche se lo scoprisse qualcuno, lui vuole così e tutti devono ubbidirgli. Oh, mi volete proprio mettere in mezzo a questa storia? Perderò il mio posto, sono sicura. Non può succedere altro per i capricci di quello là. Marta, tu non perderai niente, come te lo devo dire? Basta che tu faccia come dice lui. Ma dimmi, Mary, lui è stato veramente carino con te? Oh, penso di essergli piaciuta davvero, è stato molto gentile. Devi avere una bacchetta magica, sospirò Marta. Tu ti intendi di magie, di incantesimi? Chiese interessata Mary. Io ne ho sentito tanto parlare in India, ma non sono capace di farne. Sono semplicemente andata nella sua stanza. Sono rimasta molto sorpresa quando l'ho visto e lui lo stesso. Ha pensato che fossi un fantasma o un sogno e io ho pensato lo stesso di lui. Era stranissimo essere noi due insieme nel mezzo della notte, non sapendo niente l'uno dell'altra. Tutti dormivano. C'era quel rumore del vento e della pioggia, ma poi, quando abbiamo cominciato a parlare, non l'abbiamo sentito più. Quando ho detto che era ora di andar via, lui mi ha chiesto di restare ancora. Incredibile, incredibile, mormorava Marta. Ma dimmi, Marta, lui mi ha detto che è molto malato. Che cos'ha di preciso? Nessuno lo sa, veramente. Tu hai visto Mr. Craven? Lui ha la fissazione di essere gobbo. Ha sempre avuto paura che suo figlio diventi come lui, che crescendo sia gobbo, perciò lo curano facendolo stare a letto perché la spina dorsale non si curvi. Povero Mr. Craven, la morte della moglie lo deve aver fatto diventare quasi pazzo. Pensavano che avrebbe finito per andare in manicomio. Sai che non vuole neanche vedere suo figlio perché gli ricorda troppo la povera signora? Pensa che cosa triste. La mamma morta, il papà sempre in viaggio, lontano, il medico che viene a visitarlo spessissimo per vedere che progressi ha fatto la deformazione della spina dorsale. Lui sempre in quel letto, al massimo va a sdraiarsi sul divano, poi sempre da solo perché non vuol vedere nessuno. Ma Colin è gobbo? Chiese Mary. Io non l'ho visto in piedi, ma non mi è sembrato gobbo. Ancora non lo è, precisò Marta. Ma lo diventerà se vive. La mia mamma ha molta pena di quel bambino perché dice che vivere come vive lui farebbe ammalare chiunque. La sua spina dorsale è un po' debole, ma non la rinforzano certo facendolo stare sempre a letto, disteso, non facendolo camminare e respirare l'aria buona. Una volta gli fecero mettere un busto, ma lui urlò e gridò tanto che fecero venire un grande professore da Londra e quello glielo fece togliere. Vengono tanti di quei medici a vederlo. È servito da 3 o 4 persone, ma non c'è veramente nessuna persona che si curi con affetto di lui. Una volta che venne un medico nuovo e Colin era di cattivo umore, fece uno di quei capricci che ti dicevo prima. Il medico gridò anche lui e disse che la malattia di quel bambino era avere troppo di tutto e niente di buona educazione. Sì, penso anch'io che sia molto viziato, convenne Mary.